Buonasera, Chiesa. Sì, è bello incontrarci, vede, specialmente in questa sera, perché doppiamente bello, perché insomma voi siete naufraghi, noi siamo naufraghi, no? Abbiamo superato tutta la tempesta che ci ha preso, o no? Con gli ombrelli, con le cose siamo qui, vedete quanti mancano? Questo vuol dire che non sono riuscita a venire, però io voglio anche lodare il gruppo da Mottola che viene, perché hanno incontrato veramente una tempesta e noi, se mettiamo il naso fuori dalla porta, ci sono due gocce, dice, ma stasera no, è troppo bagnato, bagnato. Ma bello essere insieme, bello essere insieme. Andiamo al soggetto di questa sera. Io voglio subito citare il passo in Deuteronomio, capitolo 11, al verso 26. È scritto a te, a me, a tutti noi, scegli oggi, decidi oggi. Che cosa vuoi vivere? Io metto, è scritto letteralmente, io metto dinanzi a te la benedizione e la maledizione. Scegli tu. Logicamente, se io dico, che scegliamo? E chi non ha risposto non sceglie niente. La benedizione, logicamente. Però questo comporta che noi dobbiamo attivare la benedizione, non è il miracolo di Dio per noi. Quando ho bisogno metto il gettone e mi arriva la benedizione in quella situazione o in quell'altra situazione, non funziona così. L'abbiamo anche sperimentata, l'abbiamo pure voluto fare, abbiamo pregato intensamente, abbiamo aperto un occhio e non c'era la risposta, l'abbiamo fatta tante volte. Perché? Perché ci sono delle attività, ci sono dei segreti, ci sono delle chiavi per far innescare il meccanismo della benedizione nella nostra vita. Qualcosa che noi dobbiamo attuare. Ecco perché il Signore ha detto scegli oggi, decidi oggi. Non è qualcosa che io ti do semplicemente, ma sono io, sei tu, siamo noi che dobbiamo fare una scelta e decidere. Ora, una di queste chiavi, per me la più importante, sappiamo anche che ne so io, la lode e adorazione è una chiave per venire fuori e sperimentare le benedizioni del Signore. Quanti di noi, per mezzo del lodare la mattina, stonato o non stonato, durante il giorno, in qualsiasi altro momento, avverti quella liberazione, quel liberarsi da quel peso, o la preghiera, quando ci libera la preghiera, potendo mettere quel peso che portiamo, portarlo al Signore e ci libera. Però questa chiave o questo segreto che io ritengo uno, se non il più importante, è un'azione da compiere, non è un'attività semplicemente spirituale, mi inginocchio e lo faccio, alzo le mani e lo faccio, penso e lo faccio, no, è un'attività pratica e questo è il perdonare. È un'attività molto semplice, ma tanto, tanto difficile, ma è qualcosa da fare, non è io ho perdonato, noi abbiamo perdonato, però il punto importante è verificare se io ho perdonato realmente in quella situazione, o quel fratello, o quel parente, o quell'amico, quel vicino, il collega di lavoro. E questo lo verifichi vedendo i sentimenti che si accendono dentro di te ogni qualvolta si ripete quella cosa. E lì è la verifica di capire ho perdonato realmente, ho perdonato con un'attività. Perciò è importante che noi svolgiamo un'attività pratica per perdonare. Anzi, se noi andiamo a vedere nella lingua originale in cui è stato scritto la parola di Dio, la Bibbia, nell'Antico Testamento che è stato scritto in ebraico, perdonare ha a che fare con coprire. E non semplicemente coprire con una coperta che poi vai a scoprire, ma coprire nel senso di sotterrare sotto una montagna per non poter riprendere più. Ha anche a che fare con cancellare. E tutti quanti, non ci sono più, però ai miei tempi c'erano belle le lavagne nere, no? E quindi con il gessetto tu andavi a scrivere e era ben visibile a 15 metri, che prima le aule erano strette e lunghe, a 15 metri tu leggevi bene perché scritto il bianco sul nero si vedeva. Poi a un certo punto l'insegnante cancellava, non vedevi più niente, non lo potevi riprendere quella parola, la potevi riscrivere, ma non la potevi riprendere. Allora il senso è proprio questo del perdono. Il perdono deve essere un cancellare. Non mi dite, ma come si fa? Se io lo sapevo, Sadamo l'avrei fatto, non ho capito. Cioè è un camminare insieme, è un andare avanti insieme, è un anche impegnarsi in quello. Poi invece nella lingua greca, la lingua che è stata usata per scrivere il Nuovo Testamento, è ancora più forte il significato del termine perdonare. E ha a che fare, dice, lasciare andare o mettere in libertà, riparare. Questo è il senso più forte del perdonare, riparare. Ora riparare, ora lasciare andare, ora mettere in libertà è un atto pratico. Non ha a che vedere con qualcosa di spirituale, è qualcosa proprio che devi fare naturalmente con le mani, non solo anche con le parole, perché anche le parole sono pratiche, ma proprio farlo, realizzarlo, riparare. E tu puoi, se il motore è rotto della tua macchina, io credo che tu abbia tutta la fede di questo mondo e puoi pregare. Anzi, no, facciamo così. Il pastore ha lasciato le luci della macchina accese e è andato a spegnerle. Altrimenti, che cosa succedeva? Quando andava la macchina non partiva, chiamava a me, con i cavi dovevi aggiungere qualcosa che mancava, l'elettricità. E questo è il senso di riparare, di andare ad aggiustare quello che manca, quello non l'atto magico che mia moglie compie ogni volta con un attrezzo, sia un ferro da stire, sia una televisione, sia una radio. Allora lì per mia moglie basta dare due colpetti e deve funzionare. E funziona qualche volta. Ma non va, non è quello il senso. Il senso di riparare è proprio smontare, aprire, vedere il pezzo rotto, cambiarlo, toglierlo e mettere quello che funziona. Questo è il significato reale, pratico e vero del perdonare. Questo il Signore ci chiede a noi di fare, perché noi siamo la testimonianza in questa società. Noi siamo quello che Lui è in questa società. Ora, se noi lo siamo solo a parole, raccontando, possiamo essere bravi e addestrati nella parola di Dio e conoscere tanti passi a memoria e i significati di tanti versi o di tanti aspetti della parola di Dio e saperli spiegare bene, tutto questo non significa niente. O meglio, no, non è vero. Poco. Poco. Ma tu compi un atto di perdonare verso un'altra persona e vedi questo che significato ha, ti guardano strano. Sembra che tu venga dal un extraterrestre. Sembra, dice, ma è possibile una cosa del genere? E lì è la reale testimonianza. Sì, è possibile perché Cristo Gesù ha perdonato me. Ecco l'atto pratico. Perciò andiamo a inventare, a vedere questo. Io voglio leggere un passo, è in Colossesi, che è molto molto forte, forte, e ci fa rendere ben conto di che cosa vuol dire il senso di perdonare. È scritto nel verso 13 di Colossesi 2. Dice: voi, cioè noi, voi che eravate morti nei peccati, morti. E nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Ascoltate adesso. Ed Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. Ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. È incredibile. Per mezzo della croce. Ora io, tante volte a me stesso, come noi ci poniamo le domande a cose di cui sono più grandi di noi e non comprendiamo, perché Dio Padre ha mandato proprio il Figlio per pagare quel prezzo? Perché poteva trovare, essendo Dio onnipotente, onnisciente e ogni cosa, poteva trovare qualsiasi altro mezzo per pagare quel prezzo e ricevere perdono dei peccati. No, il Figlio. Perché? Per me? La risposta per me è stata quando io sono diventato padre e ho capito che cosa vuole dire offrire il proprio figlio per un'altra situazione. È incredibile, non l'avrei fatto mai, mi sarei dato piuttosto io, ma non mio figlio. Il Signore lo ha fatto, il Signore l'ha fatto. Questo è perdonare. Questo è il paragone, proprio per farci comprendere il senso profondo e vero del perdonare. Perciò il Signore ha mandato proprio il suo figlio a pagare il prezzo. Ma questa è la mia risposta. Perciò perdonare, non lo dimentichiamo, io lo tornerò a ripetere mille volte, è un'azione, è un atto pratico, è qualcosa da fare. Non sai come fare, inventalo. Non sai che cosa fare, chiedi a qualche altro che cosa posso fare per questa situazione, per far sì che io compio un'azione di perdonare. Non venirmi a chiedere come faccio a perdonare, questo non lo so. Però se tu mi vieni a chiedere che cosa potrei, io invento le cose e ti do un suggerimento: fai un caffè, fai un pranzo, fate una passeggiata insieme, chiedi a un altro, organizza una cena, così siamo presenti tutte e due e possiamo incontrarci e vedere di fare. Perché è un atto pratico. Se non c'è l'atto pratico, se non c'è l'atto pratico, è difficile che sia vero perdono, perché prima o poi riemerge l'atto pratico, l'azione che noi dobbiamo compiere. E sapete che cosa genera quell'azione? Il perdonare realmente, il fare, genera, e noi, questo io voglio vedere insieme a voi, ma la prima cosa che poi lo vediamo, quante cose, quante benedizioni o quanti realmente vita vera provoca dentro di noi compiendo questa attività, ma la prima cosa che genera è proprio toglie le conseguenze di quel non perdonare o di quell'attività che è stata svolta. E una delle cose che genera e che fa bene è proprio il benessere, lo stare bene, di nulla mancante. Ora io prenderò alcuni esempi di vita pratica, dalla parola di Dio, perché A me piacciono molto i personaggi della Bibbia. Quando devo prendere un versetto per andare a meditare sopra, pure lo dobbiamo fare, purtroppo siamo pure costretti a farlo perché Giosuè 1:8 dice meditate giorno e notte, però quando non ho il tempo di meditare, quando vado di fretta, quando mi capita una situazione, la cosa che più piace a me è confrontarmi con un personaggio della Bibbia. E vedere lui come l'ha vissuto, che cosa ha fatto, quale atteggiamento o quale pensiero ha avuto riguardo a questa situazione. Mi interfaccio e lì per me è più semplice poter reagire e fare la stessa cosa. Vediamo, e io voglio prendere uno dei personaggi più conosciuti dalla Bibbia, Davide. Ora, dobbiamo considerare questo, sì, è stato un grande uomo di Dio, l'uomo dal cuore di Dio, secondo il cuore di Dio, è stato un uomo che ha liberato il popolo del Signore, è stato un grande re, è stato un grande servitore del Signore, è stato un grande, però io sono meglio di lui. Io non ho mai commesso adulterio, lui sì. Non ho mai commesso adulterio? Non lo so. Perché? Perché ogni volta che in cuor mio, guardando mia moglie, dicevo questa qui, quella è commettere adulterio. Perché ogni volta che guardando mia moglie io pensavo, ma proprio a me doveva capitare questa? È commettere adulterio. E così possiamo vedere anche di Davide, ancora di più. Io non ho ammazzato mai nessuno, non ho sparso il sangue che lui ha sparso, lui sì. Lui ha ammazzato una persona, è andato, ha fatto ammazzare una persona. Io no. Però sai che cos'è? Parliamoci chiaro. Ogni qualvolta noi dobbiamo trovare un sottorifugio, noi dobbiamo trovare una piccola menzogna per coprire un'altra situazione e ammazzare. Perché lo stesso Dio che ha detto non ammazzare ha detto anche non mentire. Allora vedete, non siamo meglio di Davide. Possiamo dire, come lui, non sei meglio di chi ti sta a fianco. Sei uguale a lui, con altre situazioni. Ma andiamo, non era questa la storia riguardo a Davide, ma Davide ha vissuto qualcosa di, come padre, qualcosa di molto particolare. Il figlio Absalom ha ammazzato il fratello Ammon. Perché? Perché questo fratello ha stuprato la sorella, che era sorella della stessa madre di, insomma, le telenovele che ci sono nella Bibbia, io non ve lo so, cioè vai a vedere segreti e quelle cose, leggi la Bibbia, ne trovi molto di più e ti puoi confrontare e puoi vivere, è una cosa incredibile, va oltre quello che noi possiamo vedere. Cioè già tutto questo intreccio ti fa capire, ma ti parla dell'essere padre. Che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto Davide? Ha perdonato il figlio. Lo ha perdonato. Non è, dice, vabbè, il figlio. No, lo ha perdonato perché dopo lo ha accettato di nuovo nel suo palazzo. Gli ha ridato tutti i beni che lui aveva. Gli ha dato tutti gli incarichi che lui aveva. Incredibile. Incredibile. Però guardiamo l'altro lato anche. Absalom, che cosa avrà pensato del padre? Io credo che lui ha pensato, è un re debole, è padre, l'ha fatto, ma è debole. Infatti, sentendosi più forte, sentendosi più capace di governare, lui di nuovo è andato contro il padre per usurpare il suo trono e ha costituito un esercito e si è fatta della gente intorno. Che cosa ha fatto Davide? Me lo sapete dire? Che ha fatto Davide? Se n'è andato, ha preso un pugno di persone e se n'è andato sulla montagna, e lui aveva un esercito più grande. Ma certo che poteva combattere e poteva anche vincere, perché dopo i suoi hanno vinto, ma lui non ha voluto combattere contro il figlio. Perché? Perché lo ha perdonato, Vedete, io lo so, anche noi, come questo padre parla pure molto a noi come padri, e là noi dobbiamo guardarci. Quanti errori, io parlo di me, quanti errori ho commesso nei confronti dei miei figli. Non lo sapevo fare, lo facevo per la fretta, però sono errori e sono peccati. Non ho mai mancato, per quello che mi ricordo, di chiedere scusa delle cose, anche ai miei figli, anche quando erano piccoli. Però causiamo anche involontariamente tanti danni e tante difficoltà nei nostri figli. Perciò ecco perché noi dobbiamo attraversare la via del perdono. Appari debole? Allora sei proprio forte. Vedete, Davide è apparso debole agli occhi del figlio. È apparso un padre da niente, ma intanto lui ha riavuto il suo regno e più forte di prima, e ha messo sul suo trono il figlio secondo anche il cuore di Dio. Vedete, tutto questo è il benessere, il beneficio che viene da un'attività simile. Volendo continuare ancora e trovare altri esempi, c'è per esempio Giuseppe, andiamo anche veloce, Giuseppe ha perdonato i fratelli, incredibile, eppure lo hanno venduto, come si fa a vendere un fratello? Perché lo stavano ammazzando, poi si sono ripresi un po', dice, beh, vendiamo qualcuno, dice, ma proprio ammazzarlo, vedete? Che cosa ha fatto Giuseppe? Li ha perdonati. Ma come? Come si vede che li ha perdonati? Li ha perdonati non semplicemente, beh, va bene, vi perdono. No, li ha arricchiti, li ha dato beni, li ha costituiti sopra molti beni. La famiglia di Giacobbe è cresciuta proprio in Egitto. Da 70 persone che erano andate, sono diventate, quando sono uscite, 3 milioni almeno, si dice, solo gli uomini. Poi non contavano né le donne né i bambini. Tu immaginate che gente numerosa è diventata tramite quella. E non solo, come è stato benedetto, come è stato arricchito, che lui è diventato viceré, ha governato quel paese, e non solo, ma anche per Israele lui è entrato nella storia di Israele. Come? Ben 2 tribù delle 12 di Israele appartenevano a Giuseppe, i suoi 2 figli. Non è incredibile questo? Vedete la benedizione. Vogliamo vedere un altro esempio. Poi andateli a cercare questi esempi, perché sono bellissimi, almeno per me. Stefano. No, Stefano, pure Stefano nostro, non, lo so, io lo so, lo conosco. Stefano veniva lapidato. Che cosa ha detto? Quali erano le ultime parole che sono uscite dalla sua bocca prima di morire? Ditemele. Beh, più o meno ho capito il senso dalla candelina che avete fatto, va bene? Non imputare loro questo peccato. Ed è morto. Ha visto beneficio? Ma tanto beneficio, quello che lui non ha potuto fare nella vita. Chi c'era lì a lapidare? Paolo. E Paolo, tramite quell'azione, si è potuto ravvedere, è diventato il Paolo, ha annunziato l'Evangelo a tutto il mondo. Io non so se Stefano vivendo avrebbe potuto fare tutto quello che ha fatto Paolo, ma sta di fatto che per mezzo di quell'azione Paolo è diventato il servo di Dio. Vedete il beneficio che viene anche quando fai una piccola azione verso l'altro. Tu non sai quanti Paolo sono nel tuo cammino, perciò adopera il perdono a proposito e a sproposito. Questo crea tanto, tanto benessere. Quello che fa di più ancora, quello che genera il perdono è anche la guarigione. Veloce, veloce, vediamo, nemmeno lo andiamo a leggere, Giacomo capitolo 5, verso 16, ma anche prima, è il passo che dice dell'intercessore. Vi ricordate? Pregate gli uni per gli altri perché la preghiera del giusto molto può sanare. E poi dopo nel verso 16 dice: e se ha commesso dei peccati gli saranno perdonati. Che c'entra? Che c'entra la guarigione con il perdono? È incredibile, ma è reale, è così. Perché? Perché è anche scientifico, anche i medici. Io ho tanto prurito. Sarà stata la polvere, sarà stato, che ne so io, mi è venuto il prurito. Allora sono andato dal medico. Mi ha dato una pomata, ho chiesto in giro, ognuno c'ha il consiglio migliore, dall'aloe a quello, le ho messe tutte, sono andato dallo specialista, tante volte dallo specialista, pomate così, pillole colà, mi grattavo e mi gratto. E che cosa mi ha dato come ultima risposta il dermatologo, molto bravo devo dire? Sapete che cosa ha detto? Io ho provato a grattarmi in testa, ma non è arrivata al cervello. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che molte cose che noi viviamo interiormente, come rancori, come rabbia, come odio, ora non pensiamo l'odio mortale, l'antipatia è odio. Quindi ravvediamoci, quando tu vedi che uno ti è antipatico perché ha detto una parola, devi andare attraverso il perdono, perché tutto questo lavora dentro di noi per portare infermità e malattie. È reale, ormai, oggi, quasi tutto. Abbiamo un medico in mezzo a noi stasera, quindi io non parlo in termine scientifico, però reale, e quindi Mimmo, tu perdoni i termini, va bene, però so che va in questa direzione. Quando non c'è una risposta, perché anche stamattina Nino, andando a fare una visita, dice: senti, la medicina non è una scienza perfetta. E già questo dice tutto, è anche un interpretare. Allora, quando ti dicono che non, vuol dire che è dentro di noi e causa tante malattie, e lo sappiamo quando il rancore opera nello stomaco e nelle altre cose, che poi si trovano i rimedi, d'accordo, ma noi dobbiamo arrivare a monte, dobbiamo andare prima, dobbiamo arrivare laddove c'è la soluzione, e la soluzione, la chiave, e il segreto è perdonare, perdonare come atto pratico. Dici: ma io ho perdonato tutti. Questo vuol dire proprio che nemmeno ti sei posto la domanda, se mi rispondi così o se ti rispondi in questa maniera. È così. E anzi, l'altro esempio, sapete qual è? Ammon, proprio Ammon, quello che ha stuprato la sorella. Sapete che cosa è scritto di lui in 1 Samuele 13? Andatela a leggere queste storie e poi vedete che lasciate la televisione di I Segreti e quelle cose. È scritto che si appassionò a tal punto da ammalarsi e l'amico lo andava a trovare a letto. Era ammalato e aveva solo una passione insana verso la sorella. È incredibile, un sentimento esagerato, un sentimento guastato, rovina la nostra vita. Ecco perché noi dobbiamo andare attraverso il perdono. Queste sono le chiavi, questa è la pratica della parola di Dio che il Signore ci dà per vivere ogni giorno la vita di figliolo di Dio e essere una testimonianza. Un'altra cosa fa, più o meno terminiamo con questo, ed è sana dentro. Ciò che genera il perdono è sanarci dentro, perché se c'è una malattia del secolo, che chiami, lo dicevano già il secolo scorso, ma lo dicono pure adesso, è sempre quella, è. Qual è? Lo stress. Che poi non sappiamo nemmeno che cosa vuol dire, cioè l'abbiamo pure italianizzata dicendo stressato. Le tensioni. E così via dicendo. Tutto questo è la malattia di dentro, pensieri e sentimenti sbagliati provocano dentro di noi delle malattie del cuore al punto tale che noi non stiamo bene, eppure ti senti pure bene fisicamente, ma quante volte io chiedo, a causa della tristezza ci siamo messi sotto le coperte perché non sto bene. O a causa di altri sentimenti del genere, noi, amarezza, delusione, la delusione, mamma mia la delusione. Quando siamo delusi siamo degli ospedali ambulanti. La delusione provoca dentro di noi talmente tanti di quei dolori che devi indovinare che cosa non ti fa male. E viene dalla delusione, perché l'altro ha deluso. E opera con il perdono, un atto pratico, reale. Quindi pensa, ripensa a chi devi perdonare, che cosa devi perdonare. Ora io non dico vai immediatamente, perché questo è partire in quarta e non credo, fai morire il motore quando parti in quarta, ma fai i passi che si devono fare, inventa come poter realizzare questo atto e vedi quanta guarigione poi entra e serenità e pace e gioia viene, che è la vita del Signore, che sono le benedizioni. E c'è un esempio riguardo a questo, il re Saul. Il re Saul fu nominato re perché il popolo di Israele voleva un re. Allora, questo è per farla breve storia, però è bello vedere, vedete quante storie ci sono. Samuele lo nominò ubbidendo al popolo. Questo, una volta diventato re, è perché era di bell'aspetto, è perché era più alto degli altri, è perché era diventato re, si era un poco inorgoglito. Io sono il re. E che cosa ha fatto? Non ha più ubbidito a quello che il Signore diceva. E il Signore non gli chiedeva niente di particolare, sapete? Il Signore non è che ci chiede cose difficilissime. Sapete che cosa? Vi ricordate che cosa chiedeva a Saul? E dice, però è buono avere questa, così, dice, ma vedi quando... Sapete, chiedeva una cosa molto semplice, dice, aspetta. E lui è no, ma il popolo è in fermento, dobbiamo fare questi sacrifici. Lui doveva aspettare che veniva Samuele, niente di più. Non ha aspettato. Da quello, sapete che cosa è successo? Il Signore ha dato il regno a un'altra persona, a Davide, e da quel momento in poi in Saul è entrato uno spirito malamente, che erano sentimenti di invidia, erano sentimenti di competizione, erano sentimenti di chi è il migliore. Erano sentimenti di chi comandava o chi era più forte. Vi ricordate la canzone che cantavano allora, che Saul ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000? Si cantava pure la canzone allora, vedete, c'è pure la canzone in mezzo. ha perso la pace, ha perso la serenità, ha perso il regno, ha perso ogni cosa per dei sentimenti che gli hanno guastato l'animo, che lo hanno guastato dentro. Perciò ripara, ripara, ripara con atti pratici, ripara. Io vi racconto un episodio reale anche della mia vita, ed è vedete quanto è nitido che è un episodio di circa 50 anni fa. Appena io mi sono convertito e accettato Gesù nella mia vita, io vedevo i grossi impedimenti che c'erano dentro di me, come la malinconia e come la timidezza all'estremo. E lì il Signore mi ha fatto comprendere che io dovevo perdonare. E sapete chi dovevo perdonare? Dovevo perdonare mio padre, che era morto. Cioè, mio padre è morto quando io avevo 3 anni circa. Insomma, poverino, si è preso un infarto, qualcosa, è morto a 44 anni e io ce l'avevo pure con lui, perché mi sentivo abbandonato, mi sentivo solo, sono vissuto con 3 donne, mi sentivo non supportato, mi sentivo tradito, lasciato. Io ho capito questo, sono andato al cimitero. Ora, questo non vuol dire che è una pratica, mi raccomando, lasciamo i morti, va bene? Però questo è quello che io ho vissuto. Sono andato al cimitero e ho perdonato mio padre. E nel momento in cui ho fatto questo atto, io ho incominciato a piangere, che non avevo mai pianto, perché non lo conoscevo a mio padre. Era sta fotografia piccola sulla lapide, non l'ho mai conosciuto, non ho mai vissuto cose insieme a lui che io mi ricordassi, ma l'ho dovuto perdonare. E da quel momento in poi il Signore ha fatto così una liberazione nella mia vita, che la mia vita è cambiata totalmente. È incredibile quello che lui ha realizzato dentro di me. Io lo so. Va bene, chi mi sta vicino anche lo sa, ma questa è la realtà di compiere un atto pratico, qualsiasi esso sia, un atto pratico, perdonare con atto pratico, cioè con un'azione, e poi verificare. Non ti accontentare, sì, l'ho fatto, poi verifica se hai perdonato veramente. Non ti accontentare, che come si fa la verifica? Anche la verifica è molto semplice. Semplice, la parola di Dio ci offre delle cose così elementari che noi non possiamo sfuggire. Puoi verificare che hai perdonato quando nei tuoi pensieri e nei tuoi sentimenti non viene più la frase: ah, di nuovo l'ha fatto. Perché lo farà di nuovo? Perché l'altro lo farà di nuovo? Ma se io ho perdonato, non cado di nuovo. Quella è la reale verifica. E il Signore in questo ci chiama a essere testimoni. Infatti, pure Pietro si è venuto a trovare nella stessa situazione. Dice: va bene, ma io l'ho perdonato, ma quando l'ho perdonato 7 volte e non una volta o due, quante volte lo devo perdonare? Quale fu la risposta? Fino a quando tu non avverti più gli stessi sentimenti, gli stessi impedimenti, perché quelli danno danno a me, a te che lo vivi e non all'altro. Ecco perché il Signore ci porta a perdonare veramente con atti pratici, con atti reali, con azioni vere. Questo è il termine perdonare. Amen? Vogliamo alzarci in piedi? Prendiamo un momentino di tempo, facciamo in modo da pensare anche se abbiamo una Ora io non chiedo di fare l'esame di coscienza, sai, come all'ultimo, facciamo l'esame di coscienza, vediamo se ho qualcuno da perdonare. No, tu vivi delle situazioni per conto tuo. Allora chiedi anche al Signore qual è l'azione e l'attività che devi compiere, perché là è la benedizione di Dio. Signore Gesù, affido a te ognuno di noi e ogni situazione che noi viviamo, specialmente nei rapporti con gli altri, quanta sofferenza e quanto dolore ci causano, il non vivere con sentimenti che vengono da te. Perciò io chiedo, Signore, dai a ognuno di noi quella chiave, dai a ognuno di noi quella forza di intervenire per riparare e poter sperimentare noi le tue benedizioni e dare agli altri anche le tue benedizioni. Signore, rinforza ognuno di noi nel nome di Gesù. Amen.